In questo mercoledì 20 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore apre sulle borse, sprint da ripresa con il più 1,57 di Piazza Affari che spinge le banche, Wall Street in zona record. La politica invece, Corriere della Sera apre su Ora Grillo spaventa i partiti, questo è il titolo di prima pagina, mentre molti quotidiani scelgono la lettera che Berlusconi ha fatto mandare a milioni di famiglie italiane sul rimborso IMU e che ha creato polemiche. La Repubblica, Berlusconi, l'imbroglio dell'IMU, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, IMU c'è truffa per te, l'ultima di Berlusconi. Il Messaggero, IMU, nuovo caso Berlusconi, lettera avviso ai cittadini, annuncia il rimborso e Bersani dice un imbroglione, è voto di scambio. La Stampa, IMU, la lettera della discordia, il Secolo XIX, l'ultimo miracolo di Silvio, milioni di lettere intestate, rimborso IMU. Libero invece ancora sul caso Giannino, in prima pagina, fermate Giannino, finte pure le lauree, il candidato di Fare per fermare il declino confessa l'autogol e offre le dimissioni. Il Giornale invece annuncia patacca in arrivo, la carta falsa di Monti, pronto l'ennesimo aiuto dall'Europa, venerdì ci sarà un documento per dire che il prof ha salvato l'Italia. Sull'Unità invece, per il Cavaliere le regole sono mafia, la 7 Bersani chiede di valutare la cessione, Berlusconi così minaccia, mentre Avvenire un diritto rovesciato, la decisione della Corte Europea che cancella il padre naturale, la vicenda di Strasburgo su due donne che sarebbero state discriminate rispetto ai conviventi eterosessuali, la vicenda insomma dei coppie omosessuali, affidamento di bambini. Io voglio partire però da notizie ancora che ci sono dal mondo Vaticano, perché continua la polemica sui giornali sulla vicenda del cardinale Mahoney, ex cardinale di Los Angeles, che è accusato di avere coperto i preti pedofili in passato e che, essendo cardinale, si presenterà al conclave e intende proprio farlo. Lui stesso in un tweet ieri ha annunciato su Twitter: mancano pochi giorni al conclave e, come dire, non vedo l'ora di arrivare, è cominciato il conto alla rovescia verso il conclave, le vostre preghiere sono necessarie affinché noi possiamo eleggere il miglior papa per la chiesa di oggi e di domani, come dire, dando l'impressione di voler essere assolutamente presente. C'è una polemica a livello mondiale, ci sono associazioni cattoliche in America, anche Famiglia Cristiana ha fatto un sondaggio nel mondo cattolico per capire secondo voi è giusto che un cardinale che ha coperto abusi sessuali debba poi arrivare in conclave per eleggere il nuovo papa. Beh, oggi Repubblica intervista Monsignor Charles Scicluna, che negli ultimi 10 anni è stato il pubblico ministero del Tribunale della Dottrina della Fede, colui che ha istruito tutti i casi di pedofilia nella Chiesa. Il Monsignore che dava la caccia ai preti pedofili, Mahoney a Roma, se la veda con la sua coscienza. Questo è il titolo. Dice Scicluna: l'ho incontrato diverse volte in via riservata, è un cardinale molto umile che però non è riuscito a arginare i casi di pedofilia nella sua diocesi come sarebbe giusto. Da quando si è reso conto che in diocesi il fenomeno era deflagrato, ha pubblicato i nomi di tutti i preti accusati. Questo dice il suo errore, non è stato soltanto quello di non aver saputo estirpare alla radice il problema della pedofilia. Beh, non ha fatto bene a pubblicare i nomi, no, perché un conto è comunicare i nomi dei colpevoli, un altro quello di coloro che sono sospettati di esserlo. Fra gli accusati ha messo anche se stesso, perché due monsignori del Vaticano avevano sospettato di lui. Mi è sembrato francamente troppo. E qui arriva la domanda decisiva di Paolo Rodari, che intervista Monsignor Scicluna su Repubblica, pagina 17. Entrerà in conclave Cardinal Mahoney? Credo di sì. Ma in ogni caso deciderà in coscienza cosa fare. Non è una situazione facile per lui. Nelle scorse settimane ha avuto un battibecco col suo predecessore, José Gómez, che ha spinto per destituirlo da ogni incarico, al quale Mahoney ha ricordato di aver sempre accettato in passato il suo modo di agire. Insomma, il concetto è se lo veda un po' con la sua coscienza, deciderà in coscienza. Non mettetelo in croce, dice ancora Monsignor Scicluna, per i suoi errori la Chiesa è misericordiosa. Questa è la vicenda del cardinale Mahoney, che certo non è finita. L'Unità dedica ancora una pagina, il caso Mahoney è un macigno sul conclave, anche su Il Giornale. Mahoney e il tweet, ecco, ci si concentra sul tweet: conclave, conto alla rovescia, si presenterà, non si presenterà, vedremo. Intanto c'è crisi, dicono. C'è crisi in Italia, dicono. È vero, c'è molta crisi. Però c'è un dato che è spaventoso. Oggi il Corriere della Sera lo pubblica, un dato che fa riflettere. Sergio Rizzo, a pagina 33 del Corriere della Sera. Sì, certo, c'è crisi, c'è molta crisi. E allora perché gli italiani nel 2012 hanno speso in giocate dei giochi online la seguente cifra? 15 miliardi e 406 milioni di euro. Il record italiano dell'azzardo, giocate online per 15 miliardi. Uno, per carità, non si possono trarre giudizi affrettati, bisognerebbe fare un'analisi approfondita, ma io rimango sbalordito di fronte a questa cifra che ho letto sul Corriere della Sera a pagina 33. Abbiamo il 22% del mercato globale. Il 22% del mercato globale in Italia. Dal comparto il fisco incassa lo 0,6%, quindi fate il calcolo, 0,6% di questi 15 miliardi e 406 milioni. E Sergio Rizzo inizia proprio così il suo articolo: non ascoltate le Cassandre che vedono la ripresa sempre più lontana, non date retta ai menagrami secondo cui la recessione sta strozzando la nostra economia. C'è in Italia un settore che tira e tira da matti, quello delle bische online, la nuova frontiera del gioco d'azzardo. Abbiamo meno dell'1% della popolazione mondiale, ma il 22% del mercato globale dei giochi online, garrisce un comunicato stampa diffuso da NetMediaCom, riportando i risultati di uno studio del portale netbetcasino.it. Per nulla intimoriti dal rischio che il gioco può causare dipendenza, né ispirati dal suggerimento di giocare con moderazione, nel 2012 i nostri connazionali hanno speso 15 miliardi e 406 milioni. È una cifra colossale, una cifra che fa impallidire perfino la somma pure enorme investita dai francesi, 9 miliardi, 408 milioni, circa la metà, e gli inglesi, gli inventori delle scommesse, si fermano appena a 3 miliardi. Quindi un terzo degli italiani, a poca distanza dagli spagnoli che giocano 2 miliardi 354 milioni. Ecco, non ho una risposta, ma ho una domanda: perché in Italia si gioca così tanto online? Siamo al 22% del mercato globale, pur avendo un 1% della popolazione che può avere accesso a queste cose, meno dell'1% della popolazione mondiale, ma il 22% del mercato, 15 miliardi. Mi ha inquietato abbastanza questa cifra. Una delle polemiche che è letteralmente deflagrata nelle ultime 24 ore per molti giornali è il titolo d'apertura, è questa vicenda delle lettere che sono arrivate a milioni di italiani, penso a famiglie italiane, e con la dicitura avviso importante rimborso IMU 2012. Sono lettere spedite dal Popolo della Libertà a Silvio Berlusconi. Il facsimile sembra molto simile a una lettera dell'Agenzia delle Entrate, in realtà insomma è una lettera di propaganda elettorale e che ha creato e suscitato polemiche. L'avete ricevuta, cari cittadini, cari italiani, cari ascoltatori? L'avete ricevuta a casa? Vabbè, il concetto è questo: votaci, ti ridaremo l'IMU. Questo insomma è una premessa elettorale, come ce ne possono essere altre tante legittime, però qui questa lettera che è stata recapitata agli italiani ha creato la polemica. Dino Martirano sul Corriere della Sera racconta in cronaca a pagina 9 la grafica della busta, è un capolavoro di imitazione della corrispondenza ufficiale che potrebbe trarre in inganno gli elettori meno alfabetizzati. Avviso importante, il richiamo in bianco su sfondo blu, e di seguito in caratteri a corpo maggiore viene indicato il magico richiamo alle tasse, il rimborso IMU 2012, c'è scritto in bella evidenza. Per il resto la busta è anonima, solo un quadratino in alto a destra indica in modo criptico che si tratta di materiale elettorale che viaggia grazie alla tariffa postale ridotta pagata dai contribuenti. Di lettere che assomigliano molto a pseudo cartelle esattoriali a credito, Silvio Berlusconi ne ha fatte mandare 9 milioni di pezzi ad altrettante famiglie italiane proprietarie di un appartamento, un terreno, un immobile agricolo. Insomma, un qualcosa che inizia così: gentile Laura, per esempio, scritto in una missiva inviata a Sisi, sotto il titolo in eretto che la dice lunga sul messaggio che si vuol far passare, modalità e tempi per accedere nel 2013 al rimborso dell'IMU pagata nel 2012 sulla prima casa sui terreni fabbricati agricoli. Ecco, qui scoppia la polemica. Pierluigi Bersani dà a Berlusconi dell'imbroglione, lo paragona ad Achille Lauro che a Napoli portava i pacchi di pasta agli elettori, lo accusa di voto di scambio. Il Repubblica apre con questo titolo: Berlusconi l'imbroglio dell'IMU. Il Fatto Quotidiano a pagina 3: non sa più a che IMU votarsi. Questo è il titolo. C'è anche un'intervista a Gianluigi Pellegrino, avvocato del Partito Democratico, che scorre il codice penale e vede addirittura 3 fattispecie criminose in questa vicenda: millantato credito, tanto per iniziare, oppure usurpazione di pubblica funzione, articolo 347 del codice penale. Berlusconi è molto furbo, dice l'avvocato del PD, quando se ne inventa una nuova trova sempre il modo di raggiungere un obiettivo più avanzato, chiaramente con questo impegno formale raggira solo il cittadino più fragile e impreparato, ma si tratta di migliaia e migliaia di persone, fasce di popolazione che nella difficoltà del momento devono dar credito a ogni tipo di speranza. Le dirò di più: forse anche mia nonna sarebbe corsa alle poste se avesse ricevuto una lettera col suo nome e cognome firmata da Silvio in persona. E dunque questo Gianluigi Pellegrino, intervistato dal Fatto Quotidiano, l'avvocato del Partito Democratico. Il Giornale invece titola: rimborso IMU, il CAV scrive agli italiani in maniera molto asettica. Berlusconi conferma in una lettera agli elettori l'impegno a restituire la tassa sulla casa, ma la sinistra si infuria. Vabbè, la polemica della lettera dell'IMU. Negli ultimi giorni di schermaglie di campagna elettorale c'è anche Mario Monti, che ora riapre la questione della grande coalizione dopo il voto. Soltanto Monti ne parla apertamente, scrive Francesco Bei su Repubblica, pagina 4. Tutti gli altri se ne ritraggono inorriditi. Eppure, se le urne non dovessero portare a un risultato chiaro, è proprio l'ipotesi di un nuovo governo di salute pubblica a tenere banco in queste ore. Se i problemi restano così grandi, anche la maggioranza li dovrà affrontare. Ieri ha ricordato anche il capo dello Stato: è importante che si ristabilisca dopo il voto. Se si fosse annebbiata in questa settimana la piena consapevolezza dei problemi da affrontare. Ed ecco allora che Mario Monti ha detto: io finora sono l'unico che in Italia ha governato una grande coalizione, non so se mi verrà richiesto di fare la stessa cosa, ho sempre avuto la visione che per risolvere i gravissimi problemi dell'Italia serva un consenso piuttosto largo. Eccola lì l'apertura di Mario Monti all'idea di una nuova grande coalizione. A proposito di Mario Monti, c'è una polemica su Libero, con un articolo di Peppe Rinaldi che trovate in prima pagina e poi all'interno a pagina 7, per una candidatura in Campania da parte di Scelta Civica, la coalizione di Monti. Nelle liste di Monti c'è un indagato. Così Peppe Rinaldi scrive: c'è una falla nel sistema del controllo di qualità. È vero che ha chiamato Enrico Bondi, l'uomo della Spending Review, l'uomo di Parmalat e di tante altre cose, per controllare i curricula delle persone che si candidano, ma va rilevato che qualcosa deve essere sfuggito al meccanismo di filtraggio, se si considera che il vice capolista alla Camera del Collegio Campania 2, quindi in posizione tecnicamente eleggibile, quorum permettendo, qualche problemino penale ce l'ha. Parliamo dell'imprenditore avellinese Angelo Antonio D'Agostino, con interessi diffusi in costruzioni e nell'editoria, è editore di Prima TV, ed è indagato, insomma, anzi il prossimo 2 maggio dovrà rispondere in aula di giustizia di danneggiamento di beni artistici, architettonici e culturali. Con la propria azienda avrebbe sbancato un terreno operando in un'area soggetta alla tutela dei beni culturali senza le prescritte autorizzazioni. Eccolo qua il titolo di Libero: Monti porta alla Camera l'abusivo indagato. Blindato al secondo posto in Campania 2, D'Angelo sarà processato a maggio. Il Premier aveva garantito totale pulizia nelle sue liste, ora che dice? Ecco, Libero richiama Monti con questo appello. D'altra parte Beppe Grillo continua a riempire le piazze. Ieri a Milano, l'abbiamo sentito anche alle 6.30, no? Con questo appello molto molto anche d'impatto ai partiti, ai tutti i parlamentari: arrendetevi, siete circondati dal popolo italiano. La marea di Grillo anche a Milano, i politici si devono arrendere. Sul palco anche Dario Fo, si vocifera anche che nell'ultimo comizio potrebbe esserci Celentano, anche se hanno smentito dal clan di Celentano. Celentano strizza l'occhio ai 5 Stelle, ha scritto una canzone in proposito che abbiamo sentito anche nel giornale radio, anche noi alle 6.30, è diventata già un tormentone della rete. una canzone che boccia i politici anni luce, una canzone in cui si invita a riscrivere la storia del paese, scrive Carlo Moretti su Repubblica, pagina 7, è l'endorsement di Celentano che strizza l'occhio ai 5 Stelle, c'è un'onda nuova, guai non votare. E un Beppe Grillo che, secondo la questura, ecco ci sono sempre i dati della questura, ieri ha portato tra le 35.000 e le 40.000 persone in piazza a Milano, ma lui stesso dice 22.000 in streaming, cioè siamo l'evento più seguito al mondo su YouTube, ieri annunciato a Milano. Certamente titolo al Corriere della Sera in prima pagina, ora Grillo spaventa i partiti, e è sicuramente il Movimento 5 Stelle più attenzionato, nel senso che è quello più accreditato di avere molto molto seguito, poi ovviamente si vedrà tutto tra domenica e lunedì. Ci sono anche molti articoli riguardanti Oscar Giannino, il leader di Fare per fermare il declino, anche se lui oggi è stata convocata la direzione del Movimento e quindi ha messo a disposizione la propria posizione di leader, ormai non si può ritirare per motivi di legge dalla campagna elettorale, ma ha promesso che in caso di elezione in Parlamento è anche disposto a rinunciare al seggio. Insomma, la vicenda è giorno dopo giorno monta, oggi Libero titola in prima pagina così: fermate Giannino, sono finte pure le lauree, il candidato di Fare per fermare il declino confessa l'autogol, offre le dimissioni. Nicola Barone sul Sole 24 Ore a pagina 15, Giannino pronto al passo indietro, tra l'altro Oscar Giannino sarà nostro ospite domattina alle 8:15, mi risulta, dovrebbe essere così, esatto. Arriverà, scrive Nicola Barone oggi, dalla direzione di Fare per fermare il declino, la parola finale sulle sorti di Giannino. Il giornalista ha voluto che fosse l'unico organismo politico di vertice del Movimento a decidere tutto il necessario, se cioè continuare a svolgere fino in fondo la funzione di presidente e candidato premier o anche rinunciare al seggio qualora eletto. Una sorta di nuova legittimazione dopo il master, in realtà mai conseguito ma annunciato anche in interviste audio al Chicago Booth, e ora anche la vicenda delle due lauree. Giannino dice: io non ho, ho fatto solo qualche esame di giurisprudenza, ho studiato economia per 30 anni. La mia colpa è quella di non avere controllato i curricula che qualcuno ha messo in rete e che giravano. Ma ci sono tanti articoli davvero su questa vicenda che rischia anche di pagare in termini elettorali il Movimento. Giannino in lacrime, se serve mi ritiro, decide la direzione. Monica Guerzoni sul Corriere della Sera pagina 11, racconta di un Oscar Giannino che intasca un diploma di scuola superiore e nulla più, non ha conseguito alcun master alla Chicago Booth School of Business, non è laureato in economia, non è laureato nemmeno in giurisprudenza, corso di studi di cui avrebbe sostenuto solo alcuni esami a Torino. Il leader di Fermare il declino, brillante autodidatta, ha ammesso la bugia. Le sue credenziali accademiche sono false, la sua biografia che rimbalza sul web sarebbe opera di uno stagista che l'ha presa da Wikipedia. Il problema è che sul web è spuntato un altro video del 1 dicembre 2012 in cui Giannino si vanta di un master a Chicago in Corporate and Public Finance. Ho commesso un gravissimo errore, dice ora lui, è stato un clamoroso autogol che crea un vantaggio a Berlusconi e a Bersani, chiedo scusa a tutti, sono disposto a sparire nel nulla. Racconta in conferenza stampa di avere gli occhi lucidi Monica Guerzoni al pensiero della moglie Margherita, gioiosamente sposata 16 mesi fa con una cerimonia buffa che fece notizia. Avevo messo in conto che se mi fossi candidato mi avrebbero fatto barba e capelli, ma ho preso uno schiaffo che lascerà il segno. Dice anche: non sospetto nulla, non ci sono complotti, su Berlusconi non faccio illazioni manco morto. Ho cercato Zingales, cioè il professore cofondatore che ha creato, che ha fatto emergere questa vicenda. Sabato ho provato a chiamarlo, domenica da Matera ho spiegato l'incidente, ma lui non è bastato. Fa anche un'intervista al Messaggero, pronto al passo indietro, ma sul master ho chiarito. Dice anche di Zingales: è una persona di grandissima levatura, potrebbe fare benissimo il ministro dell'economia. Anche sulla stampa, insomma, a meno 4 giorni dal voto, Giannino scoppia in lacrime. Il master è come se lo avessi fatto, racconta Maria Corbi in un retroscena, seguendo anche un po' dietro le quinte della conferenza stampa, pagina 11 della stampa. Piange Giannino, ma solo quando pensa al dolore della moglie per questa vicenda. Non sta bene, ne ho passate tante io, che vuoi che sia questa tempesta. Avevo messo in conto che mi avrebbero fatto barba e capelli. Ma poi dice, quando parla appunto al telefono con la moglie, io ho studiato tanti anni a Chicago, ho talmente abbracciato le teorie degli economisti della scuola di Chicago che le ho fatte mie, per me è diventato automatico. Puntini di sospensione, al che la stampa chiede: automatico, pensare di aver fatto il master? E vabbè, insomma, questa è anche una vicenda da campagna elettorale. Allora, la vicenda Finmeccanica. Ieri è emerso sui giornali che nell'inchiesta della procura l'attuale amministratore delegato di Finmeccanica Pansa, secondo la testimonianza dei vertici di Mediobanca, in passato si sarebbe presentato proprio dai vertici di Mediobanca per chiedere che venissero appianati i debiti di circa 500.000 euro della ex moglie dell'attuale ministro dell'economia Grilli. Un po' un intreccio, spero che abbiate seguito in questa trama quasi da film. Beh, oggi Vittorio Grilli scrive una lettera pubblicata dal Sole 24 Ore in prima pagina. Caro direttore, sono costretto di nuovo a intervenire sulla fantomatica vicenda di presunte consulenze che sarebbero state elargite alla mia ex moglie Lisa Lowenstein, dalla quale sono separato dal 2008, ufficialmente divorziato. Tale intervento segue al solo fine di ribadire e confermare quanto da me già chiarito con una lettera a lei indirizzata e pubblicata il 3 ottobre. E poi continua Grilli: non ho mai chiesto favori per me o per la mia ex moglie, dalla quale sono separato da 5 anni e legalmente divorziato. E qua c'è questa frase però, attenzione: le autonome iniziative economiche della mia ex moglie non solo non sono state da me condivise, ma le stesse sono state causa non ultime della mia separazione risalente all'anno 2008. Poi, punto 2, tale circostanza è stata confermata da un audit interno di Finmeccanica, commissionata dall'allora amministratore delegato Giuseppe Orsi. Apprendo dalla stampa che i dottori Nagel e Cereda di Mediobanca avrebbero riferito che il dottor Pansa, all'epoca condirettore generale di Finmeccanica, per il quale ho stima professionale da anni amicizia personale, avrebbe chiesto, se fosse stato possibile, ristrutturare il debito contratto dalla signora Lowenstein, richiesta alla quale gli stessi avrebbero dato risposta negativa. Anche a tale circostanza irrilevante, già chiara nella modalità, non ho nulla da aggiungere. Poi un altro punto, insomma, Vittorio Grilli. C'è da dire che c'è una risposta del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, il cui titolo è: i dubbi restano. Scrive Napoletano: la gentilezza al ministro Grilli non manca, la nostra comprensione per la non condivisione delle autonome iniziative economiche della sua ex moglie. Se siamo tornati a chiedere chiarezze per la semplice ragione che il dottor Pansa, designato da lei alla guida di Finmeccanica al posto di Orsi, è lo stesso che avrebbe perorato la causa della ristrutturazione del debito della sua ex moglie. Perorazione conclusasi con esito negativo. Prendiamo atto della distinzione da lei implicitamente operata tra i confini professionali delle sue decisioni e quelli personali dell'azione di Pansa in favore della sua ex moglie, ma capirà che i dubbi sono legittimi e restano. Il silenzio di Pansa non aiuta a dissolverli. È questa la vicenda su Finmeccanica. Grilli è ricattabile, così titola la stampa, è il titolo che è contenuto in un rapporto dei carabinieri. La difesa del ministro in questa lettera al Sole 24 Ore, raccontano anche gli altri giornali, mai chiesto favori. Ma certo, insomma, l'informativa che Guido Rotolo scrive del NOE, cioè il gruppo dei carabinieri, fornisce un'altra lettura. Fornisce questa lettura: questi scenari di estrema delicatezza che coinvolgono il ministro dell'economia, la sua ex moglie, l'amministratore delegato, il direttore generale di Finmeccanica, altri soggetti si intrecciano con le indagini in corso e influenzano il ministro Grilli nel prendere iniziative o decisioni a tutela degli azionisti dell'azienda di Stato, perché tutti in qualche modo sono coinvolti e o ricattabili, demandando in ultima analisi le decisioni alla magistratura. Insomma, scrivono i carabinieri in questo rapporto. Questo intreccio, al di là dei poi le spiegazioni, quelle che poi verranno approfondite, rendono comunque il ministro dell'economia ricattabile, questo secondo i carabinieri. La difesa di Grilli e Maroni, perché c'è anche il fronte politico, l'accusa da parte nei confronti della Lega è quella di avere appoggiato, sponsorizzato il precedente amministratore delegato Orsi. Ieri Maroni è sbottato: come è possibile, scrive il Corriere, lasciar pensare che la Lega c'entri con le tangenti, senza specificare che in realtà quello è un filone di indagine già chiuso. Il leader leghista è ormai irrefrenabile, scrive Marco Cremonesi. Io rivendico l'onestà totale dei miei comportamenti. Mi girano vorticosamente le scatole quando vengo accusato attraverso illazioni che sono già state dimostrate come inconsistenti. Vabbè, insomma, la vicenda Finmeccanica è una vicenda molto molto intricata. Ci sarebbe anche molto da raccontare della vicenda di La 7, che è diventato un caso politico, la vendita con la trattativa in esclusiva con Umberto Cairo, editore, presidente anche del Torino Calcio, che viene intervistato da Massimo Sideri sul Corriere della Sera. L'accusa è essere vicino a Berlusconi e quindi di fare una nuova TV, tra virgolette, berlusconiana. Berlusconi mi licenziò. Questa è la verità. Ho lavorato a Fininvest, dice al Corriere Umberto Cairo, ma nel 95 fui licenziato senza troppi riguardi. Sotto di me la Mondadori pubblicità passò da 4 a 500 miliardi di lire. Non ho mai parlato molto di questo perché uno non si vanta di essere stato licenziato, ma sono rimasto stupefatto dal collegamento. In questi anni non ho più lavorato per la Fininvest e dunque è un polverone spiegabile solo con le elezioni, la campagna elettorale. Così si difende Urbano Cairo. Quanto ho? 20 secondi? Beh, leggete! Un minuto, bene. Leggete sui vari giornali quella che il secolo XIX ha definito Ocean's Eleven in aeroporto. La rapina del secolo a Bruxelles. Hanno rubato 38 milioni di euro in diamanti. Una vicenda da film, anche Gianni Calessin sul giornale la racconta in maniera molto efficace. Oppure Repubblica, Bruxelles, rapina perfetta, assalto in divisa all'aereo, rubata una cascata di diamanti. Era sulla pista, Bruxelles, direzione Zurigo, tutti i passeggeri già a bordo. A un certo punto arriva un corriere che deve imbarcare delle valigie con i diamanti, evidentemente lo sapevano, delle persone vestite, travestite con divise d'aereo, si avvicinano e dicono dateci diamanti, spariscono. Introvabili, perché i diamanti non lasciano traccia. 38 milioni di euro. Questo è il bottino di questa rapina del secolo, una cascata di diamanti a Bruxelles, il colpo del secolo. Lo trovate su tutti i giornali, questo straordinario racconto di una rapina senza sparare un solo colpo.